Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani e ben trovati a Salva Danaio. Prosegue il ciclo di puntate dedicate alla riforma del mercato del lavoro, un ciclo che è alla sua seconda edizione dopo le puntate che vi abbiamo proposto, come ricorderete, tra novembre e dicembre. Questa volta il ciclo si chiama I martedì del lavoro. Abbiamo ricominciato settimana scorsa con il contratto di apprendistato, tema sul quale proprio oggi ci sono delle novità e ve le racconteremo tra poco, ma visto che la disoccupazione è alle stelle e Banca Italia stima che nel 2014 toccheremo nuove vette inesplorate, addirittura fino al 14% nel nostro paese, oggi abbiamo ritenuto di andare ad affrontare le novità in tema di ammortizzatori sociali. Dal 1 gennaio è operativa l'ASPI, l'assicurazione sociale per l'impiego, che prende il posto delle vecchie indennità di disoccupazione e mobilità. Nella sostanza una sorta di erede unica di queste due forme di sostegno al reddito. L'ASPI interesserà i lavoratori dipendenti del settore privato, compresi gli apprendisti, i soci di cooperativa, il personale artistico subordinato, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con contratto a tempo determinato. Un sistema che grava quasi interamente sulle aziende che dovranno maggiorare i contributi INPS a partire dagli stipendi di gennaio per appunto finanziare il sistema universale di tutele per chi perde il posto di lavoro. Ma oggi ci chiediamo a quali lavoratori spetta, per quanto tempo ne possono beneficiare, se è terminato il tempo, il lavoro manca ancora, cosa succede? E tra l'altro c'è anche da ricordare che oltre all'ASPI c'è anche una mini ASPI per i lavoratori precari, per cui tante cose da conoscere questa mattina e sono tutti temi estremamente delicati, per cui abbiamo naturalmente reinterpellato chi conosce in maniera molto approfondita questi argomenti, l'avvocato Gianpiero Falasca, giuslavorista, esperto per il Sole 24 Ore, di mercato del lavoro, di temi previdenziali e tanto altro ancora. Avvocato, buongiorno e bentornato a Salva Danaio. Buongiorno, buongiorno. E anche un ben ritornato, un ben ritrovato ad Alessandro Rotaporta, consulente del lavoro, anche in questo caso esperto del Sole 24 Ore su questi argomenti e tanti altri. Oggi ce lo abbiamo qua a Milano. Buongiorno, dottor Rotaporta, benvenuto. Buongiorno, grazie dell'ospitalità. Allora, come sempre, chiaramente ci piacerebbe avere una trasmissione particolarmente vivace grazie ai vostri contributi. Ci potete chiamare, come sempre, all'800 24 00 24, ci potete scrivere al 349 238 6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, potete scriverci su Facebook al profilo salvadanaio-radio24, su Twitter @salvadanaio24. Adesso la borsa. Borsa molto movimentata questa mattina perché abbiamo avuto una partenza così poco mossa, piuttosto prudente. Poi i principali indici del vecchio continente hanno preferito piazzarsi in territorio negativo e non si risollevano, mentre è Milano oggi la regina della volatilità europea. Listino milanese, il FTSE MIB, è partito con una prestazione a rialzo, poi ha perso tutto, è arrivato a perdere oltre un punto percentuale, adesso guadagna mezzo punto. In movimento il settore bancario per le indiscrezioni che sono state pubblicate questa mattina dal Fatto Quotidiano e che riguardano il gruppo Monte dei Paschi, indiscrezioni su presunte irregolarità nei conti legate ad un derivato siglato nel 2009 appunto con il colosso finanziario Nomura gestito da questo. Questa operazione, che è piuttosto complicata, comunque avrebbe naturalmente peggiorato le condizioni del bilancio dell'istituto senese, che poi, come sapete, ha chiesto in questi ultimi tempi Monti Bond, ma in ogni caso una situazione sulla quale far luce e che oggi viene penalizzata pesantemente in borsa. Il titolo ha perso quasi 6 punti, è finito in asta di volatilità, adesso il calo del 3,87%. Ad un certo punto andavano molto male tutti i titoli del settore bancario, ma adesso si stanno risollevando tutti. Perde ancora un punto UbiBanca, mentre tornano in territorio positivo Intesa, più 0,13%, e poi anche le altre, il Banco Popolare, più 0,59%, Popolare dell'Emilia Romagna, più 0,8, Unicredit in rialzo di un punto. I migliori titoli in assoluto sono però Finmeccanica, più 3 per il gruppo, ci sarebbe ormai pronta appunto la cessione di Ansaldo Energia, tema del quale si parla da un po', ma l'operazione potrebbe essere chiusa a breve, secondo quanto scrive Repubblica stamattina. Enel Green Power, più 2,39%, Prysmian, più 1,90%, Luxottica, più 1,58%. È andata molto bene questa mattina un'asta dalla Spagna, che ha collocato con tassi in forte ribasso titoli annuali a 3-6 mesi per 2 miliardi e 780 milioni di euro, quindi una buona notizia. Dicevamo peraltro la Spagna ha anche annunciato che sta sondando il mercato per emettere un bond a 10 anni. L'euro sul dollaro a 1,3362, lo spread fra BTP e Bund stamattina è orientato sui 262-263 punti base. Un altro elemento un po' di nervosismo questa mattina sui mercati: circolano in borsa notizie su possibili dimissioni del presidente della Bundesbank Weidmann, ma insomma indiscrezioni che al momento non trovano nessuna conferma. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi: mercato del lavoro, la riforma Fornero, i nuovi ammortizzatori sociali. L'ASPI, che sta per Assicurazione Sociale per l'Impiego, è il nuovo ammortizzatore sociale introdotto dalla riforma del lavoro firmata Elsa Fornero, che andrà a sostituire gli attuali istituti dell'assegno di mobilità, del sussidio di disoccupazione e in parte della cassa integrazione straordinaria. Il sistema, in vigore da quest'anno, prevede l'erogazione di un assegno mensile per un massimo di 8 mesi, che diventano 12 per gli over 50. Ottiene l'indennità chi ha perso il posto di lavoro dopo il 1 gennaio 2013, per cause indipendenti dalla sua volontà. Il lavoratore che resta disoccupato in seguito alla presentazione di una lettera di dimissioni non rientra quindi tra i destinatari del sussidio. L'assegno mensile sarà pari al 75% della retribuzione, con un tetto massimo fissato a 1.119 euro lordi al mese, circa 1.050 netti. È escluso chi non ha raggiunto almeno 2 anni di anzianità e almeno 1 anno di contributi versati nei 2 anni precedenti al periodo di disoccupazione. Il diritto all'ASPI si perde nel momento in cui il lavoratore ottiene una pensione o una nuova occupazione con un contratto di durata superiore ai 6 mesi, ma anche se rifiuta un'offerta di lavoro in una città raggiungibile in meno di 80 minuti dalla propria residenza. Un discorso diverso per coloro che, rimasti senza lavoro, decidono di mettersi in proprio. Chi inizia un percorso da libero professionista mantiene il diritto all'incasso dell'80% dell'assegno se invia, entro un mese, un'apposita comunicazione all'INPS e a condizione di non guadagnare nel primo anno di attività più di 4.800 euro. 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande in diretta. Se invece ce le volete scrivere, potete farlo al 349-238-6666, all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, su Facebook e su Twitter. Ma direi di cominciare, magari, visto così, per mantenere anche un filo di coerenza con le trasmissioni precedentemente fatte, vorrei cominciare appunto sulle novità che arrivano sul fronte dell'apprendistato, perché c'è una circolare del Ministero del Lavoro con una serie di chiarimenti rispetto appunto alla riforma Fornero, la legge 92 del 2012 di giugno dello scorso anno. Magari avvocato Falasca, inizio con lei, anche se questo tema la settimana scorsa l'ho affrontato con Alessandro Rotaporta. Allora, la novità riguarda il lavoratore che viene così pizzicato a non fare formazione durante un contratto di apprendistato secondo quanto disciplinato dalla legge. Quali sono le novità che questa mattina il Ministero del Lavoro appunto presenta? Anzi, lo ha fatto ieri, oggi l'articolo è sul Sole 24 Ore. Esatto, sì, la circolare di ieri, che è la numero 5 del 2013, credo anche sia sul sito del Sole 24 Ore, in sostanza spiega quando e come si applicano le sanzioni se l'apprendista non ha fatto la formazione. E l'aspetto più innovativo della circolare, che non è una novità assoluta in questi anni, perché il Ministero spesso si sta impegnando molto in questo, è la gradualità dell'approccio sanzionatorio. Cioè, quello che dice la circolare agli ispettori del lavoro è che devono andare in azienda, verificare se l'impegno formativo è stato rispettato o meno ed avere un approccio che varia caso per caso. L'esempio è quello del primo anno. Durante il primo anno di apprendistato non va mai fatta la sanzione, ma va fatto un provvedimento che si chiama disposizione, con il quale gli ispettori del lavoro ordinano al datore di lavoro di coprire il suo lo chiamano debito. Una tirata d'orecchio, una in tirata... sostanza, chiamiamola così. Sì, è un avvertimento, perché se poi... E poi negli anni successivi sono fissate delle percentuali: se è stato fatto un po' di formazione, allora è il caso solo di tirare le orecchie; se non è stato fatto nulla, si applica subito la sanzione. Secondo me è giusto, perché si mette al centro dell'attività ispettiva il risultato, cioè far fare la formazione e non la sanzione fine a se stessa. Ovviamente non siamo in Scandinavia, ho il sospetto che non siamo in Scandinavia e non vorrei che fossero lette queste norme al contrario, quindi il primo anno non facciamo la formazione, tanto non ci succede nulla. No, invece insomma le aziende sono invitate naturalmente a comportarsi correttamente, è anche vero che data le difficoltà che c'è adesso nel mercato del lavoro, è chiaro che comunque anche il Ministero del Lavoro dice vabbè, non chiudiamo un occhio, ma come dire, agiamo con un po' più di buon senso rispetto alla rigidità che sarebbe necessaria. Rotaporta voleva aggiungere qualcos'altro su questa novità di questa mattina, visto che è stato il nostro grande tema di settimana scorsa, tra l'altro lo ricordo con delle testimonianze anche veramente belle che ci sono arrivate. Sì, sono, come diceva l'avvocato Falasca, delle precisazioni molto importanti, anche perché ricordiamo, bene dirlo, la mancata formazione, quindi la contestazione di una mancata formazione tout court porta a sanzioni pesanti, cioè la restituzione della contribuzione che non è stata versata perché il datore di lavoro ha fruito delle agevolazioni, con la maggiorazione del 100% di sanzioni. Quindi effettivamente questa interpretazione dovrebbe uniformare l'azione ispettiva a un minimo di cautela prima di adottare questo tipo di sanzioni. Certo, anche perché naturalmente ci sono delle situazioni molto differenziate sul territorio, nel tessuto imprenditoriale. Quindi, avvocato Falasca, noi ce lo raccontavamo prima anche un po' a microfoni spenti, immaginando come potenzialmente possono avvenire queste ispezioni all'interno delle imprese, delle piccole e medie imprese, che sono effettivamente anche nell'oggettiva difficoltà di star dietro ad un apprendista per potergli insegnare tutti i segreti del mestiere. Esatto, e quello che cambia molto, almeno dalla mia esperienza, cambia anche molto l'applicazione di questi istituti contrattuali secondo le dimensioni dell'azienda. Un po' anche secondo il territorio, ma la grande differenza lo vedo tra la piccolissima azienda e la grande azienda. Nella grande azienda c'è un buon livello di adeguamento alla normativa, nella piccola e piccolissima fare un apprendistato ancora significa purtroppo scrivere su un foglio che si farà la formazione, prendere gli sgravi dell'INPS e non fare nulla. Queste aziende hanno una riduzione, hanno bisogno della riduzione drastica del cuneo fiscale, basta, per cui è chiaro che ne approfittano, non in termini chiaramente negativi, ma solamente per sopravvivere qualche volta. Sì, poi c'è la difficoltà anche tecnica di metterlo in piedi, perché negli anni passati, negli ultimi 10 anni, abbiamo fatto veramente carne da macello di questo istituto, con norme sbagliate, complesse, e diventava quasi impossibile usarlo. È rimasta questa sensazione. Oggi è diventato un istituto facile da applicare, ma la piccola impresa ancora lo deve scoprire, e quando lo scoprirà vedrà che è più facile anche far fare la formazione all'apprendista, però ancora oggi la realtà è questa, quindi è sicuramente un tema delicato, e attenzione, perché è un tema che ha risvolti anche con l'Unione Europea, perché noi alle imprese che prendono apprendisti non facciamo pagare i contributi, non facciamo pagare i contributi, è lecita questa scelta solo nella misura in cui ci sia veramente la formazione, se no rifiniamo in quello che successe con il contratto di formazione lavoro, in cui l'Unione Europea ci disse ma questi, se non c'è la formazione dentro, sono aiuti di Stato. Quindi va sicuramente monitorata l'attuazione del contratto, va comunicato molto alle aziende, ripeto, soprattutto alle piccole aziende, che cosa si può fare, come va fatto, perché oggi non è difficile far fare la formazione all'apprendista, bisogna scrivere un piano formativo, si può fare in azienda, ma bisogna individuare una persona che gli insegna qualcosa e un poi tutor. Bisogna farlo. Allora magari ci ritorneremo prossimamente, adesso visto che abbiamo lanciato l'ASPI e il nuovo sistema di ammortizzatori sociali, ci sono molti ascoltatori pronti chiaramente a chiederci delucidazioni su questo, allora intavoliamo la nostra riflessione prendendo a spunto un caso concreto, poi da lì spieghiamo tutti i dettagli su come si accede a queste nuove formule e naturalmente quali sono anche i nuovi adempimenti economici delle aziende che da gennaio si sono appesantiti, perché anche questo va ricordato molto chiaramente. Vito da Milano, dalla provincia di Milano, buongiorno, benvenuto e buon anno, perché io ho detto che fino a fine gennaio ancora continuo ad augurarlo. Vito, buongiorno. Buongiorno. Niente, io volevo sapere, sono stato licenziato il 17 di ottobre per un motivo soggettivo che non ha spiegazione, ma va su altri discorsi per quanto riguarda il taglio che le aziende stanno adottando, e niente, e ho fatto la domanda di disoccupazione ordinaria, non me l'hanno accettata, la mobilità in deroga non mi hanno accettato neanche quella, e volevo sapere se faccio parte di questo nuovo... di questa nuova forma. Vito, ci può dire quanti anni ha? Perché 47 anni. 47 anni. Da quanto tempo lavorava in questa azienda? Lavoravo da questa azienda dal 99. Benissimo, adesso vediamo se sono anche, come dire, requisiti necessari per i quali appunto rafforzano poi la risposta che le daranno i nostri ospiti. Allora, un caso che sarà sicuramente molto diffuso, Rotaporta, inizio con lei, se vuole un primo commento sul nostro ascoltatore. Così ad occhio gli spetta accedere appunto all'ASPI, all'assicurazione sociale per l'impiego, perché le altre forme appunto di sussidio e di sostegno al reddito gli sarebbero state rifiutate in questo Ma intanto il recesso è intervenuto nel 2012, quindi segue ancora le vecchie regole, per cui è importante precisare che l'ASPI decorre dal 1° gennaio del 2013, e quindi se fosse stato licenziato il 1° gennaio avrebbe potuto fare domanda all'INPS per fare ricorso. Beh, intanto bisogna andare a valutare con attenzione i requisiti. L'ascoltatore parlava di un licenziamento avvenuto per giustificato motivo soggettivo, quindi bisognerebbe capire se ricade magari in una fattispecie disciplinare, e poi soprattutto andare anche a vedere la storia pregressa, cioè quindi se ci sono i requisiti delle 52 settimane di accredito contributivo nel biennio precedente al licenziamento, e quindi se il lavoratore ha la condizione per poter accedere all'ammortizzatore. Quindi insomma il discrimine fondamentale però è la modalità con cui, esatto, è avvenuto il licenziamento soggettivo in questo caso. Avvocato Falasca, sì, poi diciamo andiamo che in pausa. Il concetto della legge è che se ne hai colpa lo Stato non ti tutela, quindi se sei stato giustificato, ora ovviamente nel caso di Vito magari potrai impugnare e dimostrare che colpa non ne aveva, però mi pare che lui abbia fatto capire che l'hanno licenziato per un motivo soggettivo. E in quel caso non c'è tutela né con la vecchia disoccupazione né con l'ASPI, così come se uno si dimette, a meno che non abbia una giusta causa. Certo, e quindi insomma già qualche punto fondamentale l'abbiamo messo. Adesso andiamo in pausa, meteo, pubblicità e poi ritorniamo. 800 24 00 24 per continuare a presentarci i vostri casi. Veramente tantissime le domande che stanno arrivando. Un ascoltatore chiede quando farà una trasmissione sul redditometro. Come ho detto ieri, visto che ne abbiamo fatte 200 e non appena la facciamo il giorno dopo l'Agenzia delle Entrate arriva con un'altra precisazione che ci annulla la trasmissione del giorno prima, io ho detto che ormai la prossima la faccio a fine febbraio, quando avrò un po' di carte certe sulle quali lavorare, perché sennò così vi facciamo solamente terrorismo psicologico inutilmente. Eccoci ritrovati in diretta. Oggi, martedì del lavoro, siamo ritornati appunto con un ciclo di trasmissioni sulla riforma del mercato del lavoro del ministro Fornero, la legge 92 del giugno dello scorso anno. Oggi siamo ritornati sul tema della rimodulazione del sistema degli ammortizzatori sociali, perché dal 1° gennaio di quest'anno diventa operativa l'ASPI, l'assicurazione sociale per l'impiego, che va a diventare una sorta di erede unica delle vecchie forme di sostegno al reddito, la vecchia indennità di disoccupazione e mobilità. Come si fa ad accedere a questo trattamento se si perde il posto del lavoro? Quali sono gli adempimenti anche delle aziende, che sono soprattutto di carattere economico, perché le imprese appunto per finanziare questo sistema devono mettere in campo qualcosa come 2 miliardi, ho letto delle stime, insomma, quindi aumentano anche i contributi che mensilmente versano all'INPS per finanziare appunto questo sistema. Io semplifico molto il discorso, che però è chiaramente molto più complesso e molto più delicato. Per aiutarci a capire qualcosa di più questa mattina l'avvocato Giampiero Falasca e il dottor Alessandro Rotaporta, entrambi esperti di tematiche legate al lavoro, le firme più frequenti su questi temi per il Sole 24 Ore. 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande. Allora magari possiamo ritornare appunto ai requisiti fondamentali dell'ASPI, e nella sostanza, dottor Rotaporta, l'assicurazione sociale per l'impiego assorbe completamente le vecchie forme di tutela per i lavoratori che perdono il lavoro, oppure comunque le riorganizza in qualche maniera? È più corretto dire che le riorganizza, perché effettivamente abbiamo un periodo transitorio fino alla fine del 2016, dove convivono ancora i trattamenti che erano in vigore ante ingresso dell'ASPI, e quindi ad esempio la disoccupazione speciale nel settore dell'edilizia, che quindi rimane ancora fino al 2016, l'indennità di mobilità, che cesserà con l'abrogazione proprio di tutte le norme norme sulla mobilità col 1 gennaio del 2017 e quindi abbiamo ancora una convivenza con ammortizzatori del vecchio sistema e con l'ASPI, che sta ASPI e mini ASPI. Rimane anche in campo la disoccupazione agricola, quindi quella non è stata soppressa, quindi vediamo che abbiamo un regime dove convivono, diciamo. Esatto, sì. E poi l'ASPI, avvocato Falasca, diventa operativa completamente a regime nel 2017. Sì, e diventerà l'unico trattamento. Io volevo sottolineare questo fatto positivo, perché questo è sicuramente uno dei punti più importanti della legge Fornero e forse di quelli meno considerati. Come appena detto il dottor Rodaporta, esistono tanti trattamenti con nomi diversi e il motivo non c'è dietro una logica. Si sono venuti a stratificare trattamenti diversi per settori diversi in base solo a rapporti di forza. Quindi storicamente l'industria era più forte e quindi il variegato mondo dei servizi è rimasto indietro, quindi l'industria aveva la mobilità e altri settori avevano la disoccupazione. Qui si cerca di razionalizzare e dal 2017 ci sarà la cosiddetta universalità della tutela e l'omogeneità della tutela, che è un risultato importantissimo, perché il disoccupato è sempre disoccupato, cioè a prescindere dal settore. Lo stesso, se posso aggiungere una cosa, la stessa operazione forse andava fatta sulla cassa integrazione, ma non il ministro non è riuscito ad arrivare a questo risultato perché non ha trovato dove finanziarla e ha messo una soluzione che è un po', non so se mai diventerà operativa, che è quella dei fondi bilaterali. Quindi l'ASPI è per quando è finito il rapporto di lavoro. Prima della fine del rapporto di lavoro c'è la cassa integrazione, ma solo per alcuni settori. E oggi andiamo avanti che nei settori dove non c'è si va avanti con le deroghe, le casse in deroga. Fino al 2016 ancora si potrà e poi ci dovranno essere dei fondi finanziati dalle aziende e dai lavoratori che dovrebbero coprire in questi settori. Tra l'altro, mentre mi citava le casse in deroga, mi sono ricordata che era anche arrivato un messaggio di un ascoltatore su questo argomento. Adesso naturalmente, siccome ne stanno arrivando a decine, eccolo qua, non lo trovo. Serena ci scrive: vorrei sapere se cambieranno le norme anche sulla cassa in deroga a rotazione nell'azienda dove lavoro, è stata protratta fino a giugno. Sì, questo non è casuale, perché in sostanza, intanto una cosa un po' filosofica, diciamo, il nostro paese si regge da anni gli ammortizzatori sul sistema delle casse in deroga. Questo ci dovrebbe far pensare, cioè casse prorogate di 6 mesi in 6 mesi, norme temporanee. Quindi non si riesce ad arrivare ad una normalizzazione. Esatto, diciamo la riforma del lavoro prevede che accadrà nel 2017, speriamo. Fino ad allora le casse in deroga sopravviveranno. Non è casuale giugno, dicevo, perché ad oggi le risorse ci sono fino a giugno 2013. Quindi chi arriverà col nuovo governo dovrà preoccuparsi di mettere soldi per coprire le casse in deroga da giugno fino a quando ci saranno. Però certo, a livello di programmazione non ne usciamo come al solito molto bene. Volevo fare un'altra domanda, poi ritorniamo agli ascoltatori, al dottor Rodaporta. Faccio un esempio relativo appunto all'ASPI, che riconosce un assegno massimo mensile di 1.119 euro lordi per ogni appunto per ogni 30 giorni, nel senso a livello mensile, viene erogato almeno inizialmente, non appena il lavoratore che ne ha fatto richiesta appunto ha diritto a percepirlo, per un periodo massimo di 8 mesi, 12 mesi che diventano 12 mesi per gli ultra cinquantenni. E poi naturalmente la rimodulazione degli anni successivi prevede che per gli extra cinquantenni o 55 anni l'assegno appunto si mantenga per un po' più di mesi. Come mai c'è stata questa salvaguardia per questa fascia d'età? È un'operazione legata anche alle questioni esodati, Rodaporta? No, è stata modulata in questo modo qui probabilmente anche per un discorso di risorse, quindi per dare modo al sistema di adeguarsi al sistema contributivo, quindi anche perché non dimentichiamo che i datori di lavoro sono appunto chiamati alla contribuzione, quindi al finanziamento di questo ammortizzatore, ma alcuni già stanno versando questa aliquota sulla vecchia disoccupazione, quindi in gergo la vecchia DS, quindi già stanno girando parte della contribuzione al finanziamento di questo ammortizzatore, quindi continueranno a finanziare l'ASPI già automaticamente. Alcune invece realtà imprenditoriali che prima erano escluse dal versamento della disoccupazione adesso devono entrare anche loro nel sistema, quindi dovranno finanziare l'ASPI ed è previsto un allineamento graduale per non far pagare interamente l'aliquota da subito, ad esempio alcune cooperative, quindi alcune società cooperative, per cui evidentemente è stata studiata questa messa a regime proprio per consentire anche l'allineamento contributivo da parte dei datori di lavoro. Intanto vi informo che le prime lettere per 65.000 esodati partiranno entro i primi di febbraio, lo ha assicurato questa mattina in un convegno a Roma il ministro Fornero. Le lettere riguarderanno 65.000 unità, le 65.000 unità che potranno andare in pensione con le norme in vigore prima della riforma. Andiamo agli ascoltatori. Vito da Novara, buongiorno. Vito? Buongiorno. Buongiorno, ci dica. Buongiorno, buongiorno. Senta, la mia domanda è questa, riguarda mia moglie. Comunque volevo dire, allora, col vecchia, la vecchia riforma, cosa succede se a mia moglie ancora fra un anno e mezzo, già un anno e mezzo che è in mobilità, che percepisce l'indennità. Alla scadenza di quest'altro anno e mezzo, perché è over 50, cosa succederà dopo? La prima domanda. Se mi permette anche la seconda. Proviamo. Essendo un'invalida civile, no? Sì. Assunto obbligatoriamente, no? Con la legge 68. Ecco, adesso questa azienda è fallita, quindi è stata licenziata, ha fatto 3 anni di cassa integrazione, subito dopo è scattata la mobilità. Ecco, volevo chiedere, salvaguardare questa gente qui che diciamo, insomma, è in difficoltà, naturalmente, esatto. Certo. Ecco, però lei è iscritto a collocamento. Però le dico, dottoressa, che ogni giovedì che va a vedere non ci sono richieste per operai, normale, certo. Cioè tutte richieste pretentose, nel senso laureate, conoscenze di lingue. Cioè questa persona qui ha 53 anni e non troverà più lavoro, cioè, a questo punto. Vito, la ringrazio. Lei ci ha messo, come dire, sul piatto davvero tanti temi che dovremmo e potremmo commentare, però purtroppo dobbiamo attenerci solamente alle questioni di carattere pratico che ci ha posto. Intanto è un'invalida la moglie di Vito. Secondo la riforma mi sembra che chi percepisce una pensione di invalidità non ha diritto all'ASPI, qualora fosse una persona licenziata a partire dal nuovo anno. Comunque, Falasca, mi ricordo male? Sì, però qui mi pare che il caso sia diverso, quindi non so la percentuale. Diciamo, io ho fatto solamente un legame tra l'ASPI e la pensione di invalidità, perché mi sembra che i due trattamenti non possano essere cumulabili. No, ecco. No, assolutamente. Qui la situazione è un po' diversa, e tra l'altro, tornando alla domanda di prima, qua spiega bene quello che accadrà, perché la moglie dell'ascoltatore sta godendo dei 36 mesi di indennità di mobilità. Quando l'ASPI andrà a regime nel 2018, perché abbiamo detto tutto bello, l'omogenizzazione, e lo confermo, ma significherà anche che durerà di meno quello che è oggi la mobilità, perché dal 2017 la moglie dell'ascoltatore, se fosse andata in quel periodo, avrebbe preso un massimo di 18 mesi. Quindi la metà secca. Metà secca, quindi, perché è un po' come la coperta corta, si sposta un po' più a coprire altre situazioni, certo. E lascia scoperta. Quindi questa prima osservazione. La seconda, che il problema è sempre più drammatico, quello degli over 50, perché si sta aprendo una voragine tra l'uscita ai 50 anni e il primo assegno pensionistico. E qui, secondo me, è un gap di politiche di incentivazione che in qualche modo dovrà essere colmato da chi si occuperà di queste cose. Perché ad oggi, per la moglie dell'ascoltatore, io riesco a vedere un solo vero incentivo, cioè che chi le offrirà un contratto a termine avrà lo sgravio contributivo per 12 mesi, che poi diventeranno 18 se c'è una stabilizzazione. Cioè non c'è ad oggi un sistema forte di incentivazione per le persone over 50, oppure potrà, questa è una curiosità, essere anche assunta come apprendista, perché chi è collocato nella lista di mobilità, anche se c'è una certa età, perché infatti l'apprendistato non ha requisito anagrafico, no, sì, c'era solo per le mobilità, esatto, per le mobilità, infatti, per le mobilità. Però quello che voglio dire, mi colpisce che lo chiama ancora collocamento, no? Il collocamento, purtroppo, anche se ho capito bene cosa vuole dire l'ascoltatore, anche io lo chiamo così, non esiste più dal 97. Ad oggi esistono strutture di servizio che dovrebbero incrociare domanda e offerta. Uso il condizionale perché poi, se alla moglie di Vito non viene offerta una formazione adeguata, non viene fatto un colloquio di orientamento poi mirato, magari per questa persona che ha un'invalidità, esatto, non possono neanche andare bene tutti i lavori, esatto, per cui ci sono tanti aspetti da considerare. Se l'organizzazione pubblica dei servizi per l'impiego offre solo una bacheca alla moglie di Vito, non ce la faremo mai. Invece questo è un caso in cui ci dovrebbe essere una conoscenza sul territorio, esatto, delle, come dire, esigenze imprenditoriali della zona in cui abita queste persone e tante altre cose. Un vero incontro tra domanda ed offerta. Eccoci ritrovati ancora, l'ASPI e mini ASPI qua Tra tutte le cose che dovremmo dire, in realtà non riusciremo a dirne neanche un terzo, ma comunque ci proviamo. Non abbiamo spiegato che cos'è la mini ASPI, magari una mini definizione diamone, Alessandro Rotaporta, perché l'ASPI è per una determinata categoria di lavoratori, ma tutto il precariato, che questi ammortizzatori qualche volta non ce l'ha, almeno un certo gruppo, possono beneficiare invece di una ASPI in versione ridotta. Sì, sostituisce la vecchia disoccupazione con requisiti ridotti e spetta nel momento in cui ci siano almeno 13 settimane di contribuzione nell'ultimo anno precedente alla perdita del lavoro, quindi diciamo un piccolo salvagente che può consentire di avere un trattamento minimo. Ricordiamo anche, magari per completezza, che è stata messa a regime, questa è una nota positiva della riforma, l'indennità una tantum che spetta ai co-co-co, quindi anche i co-co-co con determinati requisiti, perché le condizioni sono un po' stringenti, quindi monocommittenza, reddito non superiore a 20.000 euro, possono accedere a un trattamento. Una tantum cosa vuol dire? Che lo prendono solo questa indennità per un mese o solo una volta nel corso di tutto percorso professionale? È un'erogazione che appunto al rispetto di questi requisiti spetta in percentuale al reddito conseguito e viene erogata appunto, come dice il termine, una tantum. Andiamo a Claudio dalla provincia di Pistoia. Buongiorno Claudio. Claudio? Sì. Eccoci qua, siamo a sua disposizione. Buongiorno, senta, io termino la mobilità ordinaria a marzo, 21 marzo di quest'anno. Mm-hmm. La mobilità ordinaria era di 3 anni, io nel frattempo ho lavorato anche 14 mesi, dal 2011, agosto 2011, agosto 2012, mm-hmm. Quindi mi è stata dilazionata quella ordinaria che termina appunto a marzo. Ok, io volevo sapere, siccome mi sono informato alla regione Toscana e la mobilità in deroga non mi spetta, perché io vado in pensione effettivamente a dicembre 2014, compio 65 anni il 2013, agosto 2013, quindi volevo sapere se l'ASPI in questo caso, terminando la mobilità il 21 marzo, quella ordinaria, può intervenire a sostegno della sua situazione. Grazie Claudio. Entrambi i miei interlocutori scuotevano la testa in segno di no. Per quale motivo non ne ha diritto? Chi mi vuole rispondere? Rotaporta. Sì. Ma non ne ha diritto perché effettivamente ha già esaurito tutti i trattamenti, quindi la mobilità è alternativa all'ASPI e tra l'altro anche, come sottolineava prima l'avvocato Falasca, di miglior favore come durata, per cui quando esaurirà il trattamento di mobilità non potrà accedere né a forme in deroga, proprio perché quelle in deroga aspettano nel momento in cui non ci sono i trattamenti ordinari, e non potrà accedere all'ASPI perché è già stato fruitore di un... Credo che su questo punto non ci siamo soffermati con sufficiente forza. Chi ha già beneficiato di un trattamento ordinario di indennità, di sostegno, appunto di ammortizzatore, non può beneficiare dell'ASPI, quindi Falasca? Cioè diciamo che ad oggi sono come delle strade parallele, se ne imbocca una e si porta fino in fondo, però poi non si può saltare da un trattamento all'altro. Ma l'ASPI è arrivata nel 1 gennaio del 2013, i lavoratori si potrebbero chiedere anche questo, perché in realtà uno... per ora, diciamo la verità, che dal 1 gennaio ha cambiato nome l'indennità di disoccupazione. Okay. Eccoci. Okay. E quindi ognuno poi parte con il proprio trattamento, e posso dire una cosa che deve anche preoccupare, non vuole essere... cioè che parliamo di trattamenti, come ho detto anche prima, che in futuro non ci saranno più, cioè anche l'ascoltatore ci racconta i 36 mesi, è un qualcosa di... che quindi in questo caso non è irrazionale che lui non ne abbia diritto. Diciamo che in generale è esaurito tutto lo strumento, cioè l'idea degli ammortizzatori sociali, come dice la parola, dovrebbero essere dei ponti tra un vecchio e un nuovo lavoro, delle passerelle. No, il sistema non dovrebbe cercare di allungarli, dovrebbe cercare di farli durare il tempo necessario, in realtà, il meno possibile. Purtroppo però non stiamo investendo, nella legge Fornero c'era una delega che scadeva adesso a gennaio sui servizi per l'impiego, che già era molto timida ma che non è stata neanche attuata. Cioè se noi non ci mettiamo in testa che il vero problema è ricollocare le persone, non basteranno mai, perché il caso dell'ascoltatore di Pistoia è emblematico, ha avuto 3 anni, cioè mi permetto di dire molto, ma non gli sono bastati. occupati, mm-hmm, perché nessuno l'ha accompagnato alla nuova occupazione. Certo. Poi lui è anche ha un anno di scopertura, quindi rispetto alle voragini di cui parlavamo è sui 60 anni anche questa persona, per cui figuriamoci quante aziende in questo momento sono interessate a professionalità di questo tipo. Un minuto di tempo, non so chi sentire, sono anche in difficoltà. Andiamo a Barbara da Varese. Barbara, buongiorno, così ci mettiamo una voce femminile rapida, sì, se ce la fa, grazie. Buongiorno, mi sentite? La sentiamo bene. Perfetto. Io ho 47 anni, segretaria di direzione, impiegata a secondo livello, lavoro da 5 anni in una società che ha meno di 15 dipendenti, adesso mi licenzieranno. Quindi io mi ero interessata per sapere quanto sarebbe stata eventualmente la mia indennità di disoccupazione e ho notato una discrepanza tra quello che avete detto voi e quello che ha detto l'INPS. Allora volevo avere un chiarimento, nel senso... il licenziamento a tutti gli effetti non è stato ancora messo in atto in quanto io sono in malattia e quindi è sospeso. Volevo capire se a questo punto rientrerà nel nuovo anno. Lei non capisce come viene quantificato l'assegno, Barbara, mi scusi, o la procedura. No, le spiego adesso. Rapida, perché devo chiudere fra 40 secondi. Guardi, voi avete detto che su un lordo di 1.119 corrisponde circa un netto di 1.095, più o meno. L'INPS invece mi ha detto che io devo tassarlo, devo sottrarre il 25% per raggiungere il giusto netto. E quindi questa è una discrepanza, volevo capire chi dei due ha ragione, spero allora, voi. Sì, allora c'è una questione legata al 75% della retribuzione e sì, 25% per la parte di stipendio che oltremassa una certa soglia. Rota porta in 20 secondi se ce la fa. Sì, il calcolo è quello, quindi 75 su 1180 e il 25 per la parte di retribuzione che eccede. Però ricordiamo che c'è un massimale, che i massimali 2013 non sono ancora stati fissati, quindi è impossibile ad oggi saperlo. Quindi c'è un massimale di trattamento e soprattutto che poi l'indennità viene decurtata del 5,84, che è un'aliquota secca, e poi c'è la tassazione IRPEF. Quindi... E quindi ecco, l'INPS avrà fatto un conteggio più dettagliato della nostra scheda. Grazie ad entrambi, vi devo sicuramente al più presto rimettere insieme perché questi temi non si esauriscono certo qua. Grazie a Giampiero Falasca, Alessandro Rottaporta, Marco Lombardo, Gianmarco Ferronato, a tutti buona giornata, domani.